Benvenuti a Dedicato ed eccoci alla terza puntata con i ragazzi di Voice on Air, la terza e ultima, perché oggi abbiamo la Cree che ci fa ascoltare il suo format. Ovviamente l'abbiamo creato insieme, le abbiamo dato una mano, ma è tutta farina del suo sacco, quindi sì, Cree, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. Senza glutine anche, cioè proprio specifichiamo la farina senza glutine, cioè il mio sacco ma senza glutine. Cree, per favore, per cortesia, non ti ci mettere anche tu. Raccogliamo tutti. Dai che c'è Manfro qua che ti sta facendo dei gesti. Cioè, volgari ovviamente, sì. Perché non ci possiamo aspettare altro. Solo Ai Gia Maria li fanno. Ai Gia Maria, sì, le tre Marie. Beh, voleva dire a Bellaria, Gia Marina, perché Manfro è famoso per essere bazzigante in codesti luoghi. E bagnante. Ma sopra... bagnante, sì, a mollo così. Concentratevi. Per, sì, fino alla caviglia ti arriva l'acqua dell'Adriatico, non più in là. Continuate. No, ma noi ti... la mia vendetta. Fino alla barba. Beh, gli vogliamo bene, gli vogliamo benissimo. E comunque, lasciamo spazio alla Cree, giusto? Cree, è il tuo Sono momento. Pronta. E niente, adesso noi l'abbiamo introdotta, la facciamo partire con il suo format. Ah, ci tengo a specificare che anche nelle puntate precedenti, soprattutto in quella di Manfro, io in quanto docente di questo corso non ho assolutamente nessuna responsabilità di quello che è stato detto o fatto. Cioè, i miei allievi sono bravissimi, autonomi su tante cose, però ecco, per quello che riguarda la puntata di Manfro, nello specifico lo vogliamo dire proprio, la docente non c'entra né con i contenuti né con i rumori di sottofondo che sono stati, cioè, se uno poi fa serata, no? Come dire, e va in giro a registrare dopo aver fatto pomeriggio con gli amici e bere degli spritz e poi registra per strada, dopo se l'audio non è buono non è colpa della docente, giusto? Giusto, confermo pienamente. Grazie. Cree, a te il microfono. Dopo questo dissing, sì, parliamo di proprio intelligenza emotiva, quindi andiamo proprio a racchiudere questo momento con emotività. Perfetto, sì, grazie. Empatia. Bentrovati su Radio Città Fujiko con Ragione Cristiana. Io sono Cristiana, per l'appunto, con voi anche quest'oggi, e vi anticipo che non saremo da soli. Infatti con noi ci saranno altre persone, ma non vi svelo nulla per il momento. Oggi parleremo insieme di dati e di responsabilità. No, non sto parlando del referendum. Vi spiego tutto tra poco, ma prima ci ascoltiamo Beautiful People di David Guetta e Sia su Radio Città Fujiko. The highlight. David Guetta sia su Radio Città Fujiko con Beautiful People. Io sono sempre Cristiana e voi siete su Ragione Cristiana. Ma a proposito di Beautiful People, quest'oggi con noi saranno presenti due ospiti fantastici, sono due uomini, ma vi svelo tutto tra poco. Vi chiederete perché ho precisato il fatto che fossero uomini? È una bellissima domanda. Oggi parleremo dell'educazione emotiva e nello specifico analizzeremo il sondaggio che ha fatto per noi, che ha divulgato per noi il Relationship Wellness Institute, dove appunto specifica che il 72% delle single dichiara di sentirsi esausta dal dover educare emotivamente gli uomini che frequenta. Parliamo infatti del dating contemporaneo e pare infatti che stia emergendo questo fenomeno molto discusso, il mankeeping, ovvero il lavoro emotivo di cui le donne si fanno carico all'interno della loro coppia per gestire il benessere psicologico e relazionale. Ma di cosa parliamo nello specifico? Beh, parliamo di tutte quelle conversazioni difficili, quindi la gestione dei conflitti e lo sviluppo dell'intelligenza emotiva del partner. A quante di noi sarà capitato? Alziamo la mano, parliamone, diciamolo, di dover in qualche modo mettere a volte anche le basi per un rapporto sincero. Banalmente chiedere l'ascolto, chiedere appunto un come stai un po' più profondo, mostrare empatia magari per prime rispetto appunto a dei temi un pochino più diciamo più corposi, insomma più difficili, alle conversazioni più ostiche. E c'è chi però in questo caso giustifica anche l'uomo e quindi il comportamento che assume l'uomo in tali posizioni e lo fa il report della Global Mental Health Alliance, che evidenzia la particolarità degli uomini, parliamo appunto della fascia di età compresa tra i 25 e i 40 anni, quindi la particolarità loro di isolarsi a livello appunto sociale. Quindi una mancanza di amicizie profonde con le quali in realtà condividere la parte più personale, più profonda, pare che in qualche modo possa giustificare questa mancanza, insomma questa gestione emotiva non troppo attiva, ecco, diciamo così. Diciamo che di base, secondo appunto il sondaggio che abbiamo riportato e noto insomma a tutti, è possibile che questo si traduca in una crescente stanchezza emotiva femminile, in cui le donne appunto si sentono educande dei loro fidanzati adulti. Diciamo che noi diamo probabilmente spesso e volentieri il buon esempio. Io sono fautrice di questo, siamo fautrici anche delle parole, del dialogo costante, della trasparenza e della sincerità. Ma ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti, sarà molto divertente, ma prima ci ascoltiamo l'appuntamento di Ornella Vanoni su Radio Città Fujiko. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, e oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appunto una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto. non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra... Ed eccoci tornati sempre su Radio Città Fujiko, io sono Cristiana, siamo sempre su Ragione Cristiana ed è arrivato il momento tanto atteso, quello degli ospiti. Bentrovati Kempa e Manfro. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, bentrovati e soprattutto grazie per aver accettato questo confronto, chiamiamolo così. Allora, avete ascoltato appunto che cosa hanno da dirci tutte queste menti geniali che arrivando al succo ci riportano, diciamo, un'esasperazione emotiva, un sovraccarico emotivo per la parte femminile. Ho qualche domandina per voi. Durante una relazione attuale o passata, avete mai portato alla luce direttamente e spontaneamente, appunto parlandone con la vostra ragazza, argomenti difficili o scomodi? O di solito avete lasciato e lasciate fare a lei? Ci si è confrontati, non dico velocemente, però nel momento in cui c'era il bisogno di confrontarsi. Cioè, però la mia domanda è, tu hai portato alla luce? Tu hai scelto di parlare perché ti sei accorto... Beh, nel momento in cui si era arrivati a un certo limite di una certa situazione, ho detto così bisogna parlarne, assolutamente sì. Ok, quindi tu fai già parte di, insomma, di una certa consapevolezza emotiva. Kempa invece? Ma io devo dire che statisticamente forse l'ho fatto meno che il partner, nel senso, se vogliamo fare una proporzione. Ce l'ho fatto. Mi collego. Però... tranquillo. Tipo l'ultima volta che è successo è stata l'altro partner, cioè il partner a sollevare la questione. Ok, quindi a tirare fuori appunto questi argomenti un po' difficili, e quindi mi confermate che l'uomo fa un po' fatica a gestire queste cose, ma perché fa fatica a gestirle in primis, cioè dentro se stesso, fa fatica magari a trovare il suo profondo. Voi allenate il vostro profondo? Cioè, come funziona? Ma se posso dire che secondo me non è così, nel senso che forse perché non siamo stati allenati a lamentare, cioè io, nel senso, siccome la percezione media dell'uomo è che la donna si lamenta sempre, oppure parla di cose superflue, di relazionali, esagera a parlare sempre di emotività, eccetera. Cioè, il punto di vista dell'uomo medio è questo. E noi, per contrappunto, cerchiamo di farlo meno possibile, cioè lo facciamo il meno possibile, abbiamo meno sensibilità su questo. E io, nel mio caso, ho notato che io tendo a sottovalutare molti argomenti, cioè dico, questo argomento qua è stupido per me, non ne parlo. Quindi non è che io non senta la necessità di non parlarne, ma ho la percezione che molti argomenti sono superflui, sono lamentosi, non hanno senso in quel momento, e quindi tendo a rimandare o a dire, questo argomento non ha senso parlarne perché è una cagata. Nel mio caso la vedo così, non so come dire. Non parlo del fatto che forse non ci piacciamo più perché secondo me è ancora prematuro, secondo me è una cosa stupida perché comunque l'amore cambia e quindi è normale piacersi meno, non so come dire. Quindi secondo me, io almeno ho questo problema qua, tendo a sottovalutare molti argomenti, mentre vedo che molte mie partner che ho avuto parlano molto di più, anche se magari per me sono argomenti meno importanti, quindi la tendenza a tirare fuori molto meno. Però poi hai riscontrato che magari lei ti ha fatto notare che quegli argomenti che per te non erano poco importanti, invece erano importanti per lei o erano importanti per la coppia a questo punto. Sì, certo. Ok, questa analisi è fantastica, grazie Kempa. Manfro, tu invece con allora, il tuo profondo? Facendo riferimento che a volte in relazioni di coppia, ma anche nel mio, non ho molto la cura dei dettagli, e quindi nel momento in cui comunque ci sono delle situazioni, a volte magari un po' impulsivo, a volte no, non superficiale, ma a volte proprio impulsivo, non curante il dettaglio, mi perdo dei pezzi che per altre persone possono essere relativamente importanti, e quindi dopo alla fine salta fuori che quella situazione che per me non era importante perché non ci davo il peso, per lei era importante e non si è detto subito. Detto questo, come posso concludere? Credo che nel tempo, io in questo momento di vita mi sto riscoprendo del tempo per me per ragionare anche su queste situazioni. Credo che nella fascia 35-40, perché comunque ho quell'età e ho voglia di parlare anche con i miei amici da questo punto di vista del dire come stai? Bene, ok, come stai con Cristiana? Fanno molta fatica a esporsi, ma perché c'è proprio un... quando ci si trova tra persone di genere maschile c'è proprio la volontà di parlare di fantacalcio ed è molto invece difficile il dire ok, io ti vedo, ho un'ora e mezza a disposizione, voglio parlare con te di sapere come stai, non è molto semplice. Qui diciamo che diamo un po' ragione effettivamente al report che ci è stato presentato, a un po' questo filone dove effettivamente la donna emotivamente è un po' in qualche modo, come dire, passa un po' da educanda. No, non sono d'accordo sul fatto dell'educazione. Cioè colei che educa. Colei che in qualche modo deve gestire al meglio la relazione per far sì che tutto possa andare meglio. Al meglio relazione intendo proprio, stiamo ovviamente parlando solo della relazione emotiva, cioè della parte emotiva della situazione. Qui. Certo, perché l'uomo invece educa per quanto riguarda il fantacalcio, abbiamo sentito. No? Sì, no, esatto. Molte persone di genere maschile, se ti chiedo come stai, ti dice bene, il fantacalcio è un esempio, però il bene, ok, cioè bene, cosa vuol dire bene, vuol dire male, fanno una fatica porca, perché sei in mezzo a 18.000 situazioni, fai fatica a dire ok, io e te siamo qua un'ora, e parliamo un'ora. Allora, vi lascio con una proposta e vi chiedo l'ultima domanda. La proposta che vi lascia oggi Ragione Cristiana è questa. Vi chiedo di sforzarvi in ogni vostra relazione o quantomeno, lo so, è un grande impegno, una volta a settimana di chiedere sinceramente al vostro più caro amico, alla vostra più cara amica o alla vostra compagna come stai, ma un come stai sentito, guardandola negli occhi e quindi cercando di capire non tanto sì, ho fatto questo, ho prelato, sono andata a destra, sono andata a sinistra, ma cercando di capire il suo stato emotivo, quindi che cos'è che la preoccupa, che cos'è che la fa star bene, che cos'è di cui, qual è la cosa di cui avrebbe bisogno. Io direi che a questo punto possiamo mandare la canzone di Rito, che è, anzi, la faccio dire a Kempa, che ho scoperto essere anche una delle sue canzoni preferite. Ma certo, è Cristiana dei Marta sui tubi. Cristiana è il nome di una religione a cui lei adesso più non crede. Cristiana un tatuaggio che vuol cancellare dalla pelle, dalla testa e dal suo cuore. Cristiana non guarda più gli uomini che stanno lì a leccarsi tutto il giorno i muscoli allo specchio. E pensa ancora a chi le ha scritto certe cose, poi le ha cantate in un orecchio. Ne sente ancora l'odore nonostante tanto tempo. Cristiana, l'altro giorno t'ho visto passare per la strada mentre andavi a prenderla Maria. Che pura amica mia. Mi son girato per vedere se anche tu ti eri girata, ma ti ho visto andare via. Cristiana, ascolta Dalla che fa stare meglio come un grande tuffo dentro il mare. E non sforzarti di essere speciale, perché chi è speciale è sempre il più normale. È male che vada, mi trovi. Sì, potresti tenere anche il nome che hai e portarti a letto solo chi troverà la strofa per il tuo. Stanca dei soliti chattini sulle app di incontri? Stanca del messaggio di auguri del tuo ex che nei momenti meno opportuni ti rivela che in realtà lui non è mai andato avanti? Scegli Ragione Cristiana, l'app che ti consentirà di non commettere errori. Mai. Con un piccolo abbonamento annuale o mensile potrai garantire alle tue energie di concentrarti solo sulle cose per te veramente importanti. Quelle realmente importanti, quelle che hai scelto alle 3 di notte, 2 mesi fa, nell'unico momento di lucidità in cui credevi in te stessa e hai scelto te piuttosto che riscrivere a quel coyote. Scegli Ragione Cristiana per non perdere la ragione. Grande Cri, hai fatto anche lo spot, quindi fantastico, meraviglioso, il tuo spot mi piace, adesso non voglio essere di parte, ma lo spot femminile rispetto agli altri due delle altre due puntate che erano gli spot maschili, beh, devo dire che insomma aveva una sua valenza, ecco. Ragione Cristiana sempre disponibile. La scarico subito, assolutamente, la scarico l'app, oppure essendo ormai tua, non dico amica, ma conoscente molto bene, vicina all'amicizia, posso chiamarti quando voglio. Certo, quindi, certo. Molto bene. Allora Cri, siamo addirittura d'arrivo. Bene. Grazie a Dedicato per il tempo e lo spazio che mi ha dedicato, a me Ragione Cristiana. Grazie a te di essere stata qua con noi. Grazie mille e ci risentiamo tutti quanti il prima possibile. Certo, speriamo di risentirti prestissimo su Radio Città Fujiko, ma sicuramente come ospite di Dedicato, non più come allieva di Voice on Air, ma come ospite. Hai un sacco di cose da raccontare, direi. Ok? Grazie mille. Ci risentiamo la settimana prossima alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù.